Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno da Nicoletta Carbone, ben trovati ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Oggi una puntata davvero speciale, proprio nel significato pieno del termine, ma io non posso anticipare nulla. Qua accanto a me però in studio, come tutti i sabati, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Numero verde, perché oggi abbiamo molto bisogno di voi. Fatevi sentire, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. L'ambito su cui ci muoviamo, lo conoscete ormai bene, è quello delle sfide educative. Questa casa non è un albergo, si sta in famiglia. Alberto. Sì, anche oggi dovremo parlare di genitori e figli, di strategie che noi genitori mettiamo in atto vedendo i nostri figli che diventano grandi, che ci lanciano molti nuovi stimoli, a volte anche ci fanno arrabbiare, insomma generano dentro di noi emozioni molto molto contrastanti, e proprio di una di queste emozioni dovremo parlare oggi, partendo da una lettera. Dobbiamo separarci da una cosa molto importante della nostra vita. Non possiamo essere più specifici, ma sentiamo che è un passaggio che non ci risulta facile. Abbiamo bisogno di aiuto e per questo scriviamo a voi. Anche se non ci dobbiamo separare da un figlio, pensiamo che i genitori che vi ascoltano e che vedono i loro figli che entrano a scuola, escono con gli amici, partono per lunghi viaggi durante l'adolescenza senza più mamma e papà, abbiano molti consigli utili per noi. Voi, mamma e papà, come fate quando un figlio si separa per poco o per lungo tempo da voi e vi lascia lì ad agitare la mano, dietro un vetro, oppure sulla banchina di una stazione, o al di là del check-in di un aeroporto, o addirittura sull'altare, quando consegnate le vostre figlie ai loro sposi? Quale segreto usate, sapendo che è giusto lasciare andare per la sua strada una persona così tanto amata, ma da cui al tempo stesso non vorreste separarvi mai? Segreto, quindi l'arte, mi piace di più, del lasciare andare qualcuno che abbiamo amato molto e che tuttora amiamo molto. Allora, Alberto, chi più di un figlio incarna nella mente di un genitore proprio questi aspetti? Sì, devo dire che i genitori diventano veramente esperti dell'arte della separazione quando vedono i loro figli che crescono, anche con un po' di tristezza. Direi che le due emozioni, ragionavo preparando la trasmissione di oggi, le due emozioni dominanti probabilmente sono, da una parte, l'orgoglio, cioè tu vedi un figlio che si mette sulle sue gambe, comincia ad andare e dici: a questo figlio le competenze per spiccare il volo le ho date io, sono stato un buon allenatore. Dall'altro la tristezza, perché poi i tuoi figli vorresti sempre tenerteli vicini, tenerteli abbracciati, quindi ci sono moltissime... Perché noi dobbiamo dare radici e poi ali. Esatto. Si quindi, dice sempre esatto. Così. Io non sento. Con le radici li ancoriamo alla vita e poi con le ali li facciamo andare. Allora, intanto abbiamo Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Giorgio De Luca in redazione e assistenza. Intanto poi abbiamo i nostri ascoltatori che ci devono aiutare. Voi genitori all'ascolto, chiediamo proprio di raccontare le vostre personali storie di separazione di un figlio. Qual è il momento in cui l'avete capito, no? Che eravate pronti per fare, che avevate dentro di voi le competenze per gestire questa separazione, seppur dolorosa, quando invece avete fatto, insomma, un po' cilecca, avete avuto dei problemi, delle ferite si sono aperte in voi e poi le avete dovuto ricucire, magari proprio in coppia. 800 24 00 24, se volete raccontarcelo. Ma come sempre è attivo la nostra formula per partecipare al consiglio di lettura, che oggi è, come il tema della trasmissione, un po' speciale. Per partecipare, quindi, mandate al 349 238 6666 un messaggio in cui ci raccontate il momento in cui avete avuto una difficoltà nel lasciar volare il vostro amato figlio o figlia. E se avete una ricetta, oggi ci servono proprio consigli su come si fa a gestire bene la separazione da una cosa che si ama tanto. Ecco, se avete una ricetta, raccontatecela, per noi è molto importante. Tra l'altro abbiamo un regalo in collaborazione con Internet Bookshop che cominciamo a farvi ascoltare. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down. Questa è proprio la classica scena da piangere. Quanto hai pianto? Io ti ho visto, perché tra l'altro siamo andati pure a teatro insieme. Allora, descriviamola nostri... rapidamente. Mamma mia, donna sta spazzolando i capelli alla figlia che si sta per sposare, e ritorna indietro con la mente, rivede in quella figlia la bambina che se ne andava al mattino con il suo zainetto sulle spalle, pronta per la scuola, e capiva che quello era il primo passaggio, la prima separazione. Ne passa un sacco di strada da quel momento al momento in cui sta per accompagnare la figlia all'altare per sposarsi, e quindi il tema della separazione lì è potentissimo, ed è incredibile come questa scena faccia veramente piangere in qualche modo un po' tutti i tocchi delle corde universali. Io vi assicuro, Nicoletta era veramente sciolta dalle lacrime quando la vedeva. Anche molto. E allora noi l'abbiamo scelta. Sarà il consiglio proprio che vi inviamo oggi, il piccolo ricordo che vi riceverete oggi. Riceverete Mamma Mia grazie a Internet Bookshop. Se avete un buon racconto di separazione o anche un racconto faticoso, ma che volete condividere con noi, o una ricetta per gestire bene la separazione da un figlio, 349-238-6666 800-24-0024. D'altra parte, la separazione, imparare a separarsi, è un'arte che comincia già da quando un figlio è piccolissimo. Sì. Separarsi dal corpo della mamma, noi dovremmo essere attrezzati, poi a mano crescono e diventa sempre più complicato. Guarda, per uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, quello che in qualche modo cerca di tenere sotto traccia quando prova a ricostruire magari anche la storia di un adolescente molto arrabbiato, un po' problematico, è come è andato il suo percorso di definizione dell'autonomia. Quando è uscito dal lettone, quando ha cominciato a dormire nella sua camera da letto, come è andato l'inserimento alla scuola materna, che cosa è successo poi nel momento in cui ha dovuto cominciare a scegliere più gli amici, stare fuori di casa invece che stare dentro casa. Ecco, una sequenza, potremmo leggere il nostro percorso di crescita come un lungo percorso di tante piccole progressive separazioni da mamma e papà. Io voglio, prima di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, oggi una puntata molto dedicata a voi da casa, con i vostri messaggi, le vostre telefonate. Giampiero da Taranto, buongiorno. Pronto, buongiorno a voi, saluti alla signora e al professore. Grazie. Senta, io vi ascolto abbastanza spesso, compatibilmente con il mio lavoro. E volevo raccontare un po' la mia piccola esperienza, e visto che si parlava di separazione dei figli, quello che, come sentivo il professore, può essere un consiglio. Dunque, io premetto che ho 50 anni e sono un colonnello della Marina Militare, e praticamente Sì. probabilmente anche per il mio tipo di lavoro sono stato e sono ancora tuttora spesso fuori di casa, e mi sono accorto nel tempo che praticamente lo stare e non stare, l'avvicinarsi e non avvicinarsi ai figli e anche naturalmente alla famiglia può essere un modo per aiutarli nel tempo poi a un po' a crescere, anche se c'è il rovescio della medaglia, che non ti vedono presente. Certo. Ma quello che poi in particolare posso dire come mia esperienza, ripeto, che è avvenuto nel tempo, io ho due figlie, una di 23 e una di 20 anni, in particolare con la grande, quella di 23, mi sono accorto che praticamente stava andando da sola nel momento, il giorno in cui l'ho accompagnata a Chieti, all'università, e per lasciarla sola, insomma, sì. Ecco, perché la si era, come dire, si doveva iscrivere. Ecco, in quel momento mi sono accorto del fatto che diciamo, lei era diventata grande e non me ne ero forse mai accorto prima, e in quel momento mi sono anche commosso. Immagino. No, stavo chiamando Giampiero, ma dovrei dire Colonnello. C'è Anna da Pordenone che cita una frase di Gibran: i figli non ci appartengono. C'è poi unica ricetta è amare la libertà nella vita. Paolo: si prende atto, sono tante piccole parti. E da nonni, dopo i figli, si pena per i distacchi dei nipoti. Insomma, non si finisce mai. Non si finisce mai, si comincia presto. Senti, d'altronde, Alberto, la separazione da alcuni genitori viene vissuta in modo molto importante, faticoso, complesso, anche quando il passaggio, direi, è un po' fisiologico. Ci sembrano fisiologici i passaggi che abbiamo già affrontato e superato, no? E quello che ci aspetta ci sembra sempre più grande. Ma, insomma, il mondo va così. Primo giorno di scuola, svegliati! Andiamo al primo giorno di scuola! Oh, non voglio andare a scuola, ancora 5 minuti! No, tu, papà, io! Va bene! Alzati, c'è la scuola! Sono sveglio, c'è che la scuola, succede? Oggi comincia la scuola! C'è va la bene, scuola, sono sveglio, andiamo a scuola! Nemo! Primo giorno di scuola! Nemo, fermo, non muoverti! Non puoi farcela da solo! Ci penso io! Dov'è la ferita? Cosa? Ti fa male? No. A volte non si sente per via dei fluidi che convergono nell'area. Convergono? No. Ti gira la testa? No. Dimmi quante strisce ho. Sto bene. Rispondi alla mia domanda! 3. No! Lo vedi? È qualcosa che non va. Io ho 1, 2, 3. Non ne ho altre. Ah, stai bene. E la pinna fortunata? È fortunata. Vedere? Sicuro che vuoi cominciare quest'anno? Perché se non sei pronto puoi aspettare altri 5, 6 anni. Dai, papà, è ora di andare a scuola. Spazzolarsi. Vuoi che questa anemone finisca per pungerti? Sì. Spazzola. Fatto, andiamo. Ah, ne hai saltato un pezzo. Dove? Qui. E qui, e qui, e qui. E a questo punto chiamerei Antonio, sentirei che cosa ha da raccontarci. Ci chiama da Napoli all'800240024. Antonio, benvenuto. Buongiorno e saluto tutti. Dunque, io volevo diciamo offrire la mia esperienza, no, per quella che è stata la separazione dal mio primo figlio, intesa in termini di pochi giorni, ovviamente. Sì. Dunque, diciamo che io che cosa è successo in pratica? Tu già soffri quando tuo figlio per la prima volta da bambino, come citava il film Nemo, sì, che deve andare a scuola il primo giorno, stai in apprensione, perché sì, insomma, tu gli crei tutto un palazzo intorno dove non si può far male, gli stai intorno, gli fai tutte queste cose. Poi all'improvviso questo figlio, insomma, non lo tieni davanti agli occhi, anche se per poche ore, quindi tu vai in panico. Allora, che cosa è successo in pratica? Dopo questa esperienza di scuola, in pratica, che poi comunque poi dopo diventa normale e ti inizi a passare, però certo, è un percorso che tu fai mano a mano, perché dalla scuola elementare poi passi alle scuole medie, perché dalla scuola elementare lo accompagni tu, alla scuola media va da solo a piedi, le superiori sarà un continuo perché inizi a pigliare il treno, che ne so, il pullman, quindi sai, cambi sempre, diciamo, emozioni, no? Eh sì. Allora, che cosa è successo? Che in pratica quando mio figlio è andato per la prima volta a, diciamo, alla scuola media, noi siamo stati, diciamo, un po' o fortunati, sarà stato il caso, che il nostro figlio si è, diciamo, è stato attirato così tanto dagli scout. Sì. E quindi il nostro figlio per la prima volta ha passato 2 o 3 giorni fuori di casa con gli scout in montagna. E lei, Antonio, come se l'è passata questi 2 o 3 giorni? Oh, se li ricorda ancora, se ci chiama per raccontarceli? Chiaro che me li ricordo, perché insomma all'inizio è stato un dramma, perché tu vedevi questo pullman andare via e cosciente del fatto che tuo figlio la sera non sarebbe stato a casa tua a dormire con te, quindi andavi un poco, però dall'altro lato c'era la consapevolezza che comunque tuo figlio stava con gli altri, ma era supervisionato da ragazzi, certo, che già avevi avuto modo di interloquire con loro per un anno intero. Quindi diciamo così che io credo, cioè il consiglio che posso, la testimonianza che voglio dare, sì, insomma, è questa qua, è che tu soffri tanto quando tuo figlio è distante da te, però quando non c'è una persona che tu conosci che lo possa guardare, diciamo, dargli comunque un poco di attenzione. Antonio, grazie. Alberto, in fondo l'esperienza dei figli fanno crescere i ragazzi, ma fanno crescere anche i genitori. Quanto sei cresciuto tu? E credo che sia importante, proprio come dice Antonio, per noi genitori sapere che là fuori nel mondo ci sono anche altre persone che loro devono frequentare, alle quali noi li possiamo affidare. Tra l'altro il metodo scout è proprio tosto, perché tu quando lasci andare i tuoi figli per una settimana con gli scout, per un'uscita, non puoi sentirli mai. L'unico contatto che hai è con il cellulare delle loro guide e conseguentemente tu e loro, cioè i tuoi figli, ti alleni proprio alla separazione. È una palestra, perché cosa può succedere ad un figlio che viene trattenuto, ingabbiato da un genitore, al quale ad esempio la classica mamma, siamo sempre noi, no? Le mammone, impedisce di fare un po' di palestra, quindi esercizi sani di separazione. Vogliamo comprarti un'auto nuova. Che bisogno c'è di un'auto nuova? La Datsun va benissimo. Io non voglio cose. È sempre tutto difficile. Ci sono uomini che nella vita vanno in cerca dell'avventura. Christopher McCandless voleva cercare se stesso. Sei uno che va sui trampoli. Sui trampoli? Sei un trampoliere. È così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi. Non credi che dovresti trovarti un lavoro, fare qualcosa della tua vita? Ho solo un progetto. Me ne vado in Alaska. Alaska, Alaska? O la città di Alaska? Lassù, dritto, nel bel mezzo... Sì. Nella natura. Cosa fai quando sei là, quando sei in mezzo alla natura? Cioè, cosa fai? Cosa fai? Vivi, amico. Stiamo ascoltando un breve estratto di un film, Into the Wild, che spiega proprio molto bene la fatica di diventare adulto per un ragazzo che non ha fatto queste prove. Alberto, sì. Però, per chi non avesse visto proprio questo film... Questo è un figlio molto arrabbiato che alla fine, per non diventare come i genitori vogliono che sia, decide di fare una fuga estrema che tra le altre cose avrà una conclusione anche tragica. E direi che è un buon esempio di che cosa succede quando i figli non vengono educati a... non vengono lasciati andare, quindi o si adattano e diventano il prototipo di quello che abbiamo troppe volte sentito chiamare in questi anni bamboccione, o spesso devono veramente costruire una separazione per crisi e quindi diventa una sorta di fuga, un allontanamento forzato che genera enorme dolore, tra l'altro, sia in chi ha messo al mondo, ha generato questo figlio tanto amato, sia nel figlio stesso, cosa che dentro al film Into the Wild, se non l'avete visto, genitori, ve lo consigliamo, è molto molto evidente. A proposito di separazione, io torno a casa invece, faccio un salto perché abbiamo Livia che ci chiama da Torino. Livia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare brevissimamente, diciamo, la mia piccola ricetta. Grazie. Grazie a lei. Ho due figli, una di 32 e l'altra di 34 anni, con un carattere ottimo, fortissimo, molto forte, molto impegnativo, però buon carattere, cioè brave ragazze. La mia ricetta è stata questa, quella di cercare di andare sempre incontro, e la mia regola aurea che vorrei così... distribuire un po' ai vostri ascoltatori è questo: se si costruisce bene, se la persona, la mamma o il papà anche, aiutano in tutti i sensi i figli a capirli, andargli incontro, insomma a incontrarsi, i figli non si perdono mai. Le mie figlie sono sposate, per me è stata una bellissima cosa, una bellissima festa, ho riso, non mi sono commossa, l'ho presa in modo stupendo. L'ha presa bene, come si dice, Livia? Come? No, si dice, l'ha presa bene, come si dice, perché di solito poi quando i figli si sposano, ecco, no, felici. Per loro, ma poi mancano, no? No, assolutamente no. Le mie figlie abitano vicino, abitano nella stessa città, ci sentiamo 100 volte al giorno, per cui dico, se costruisci bene, i figli non ti abbandoneranno mai, e io le ho sempre vicine. Non so, forse non mi sono spiegata bene. No, ma lei si è spiegata benissimo, Olivia, ma aggiungiamo anche questa ricetta, perché oggi vogliamo proprio, abbiamo se bisogno del vostro devi sostegno. Bene, devi, a volte anche un pochino, una brutta parolaccia forse, annullarti un pochino per costruire bene. Ci sono loro, se costruisci, se dai delle buone basi, a meno che non siano dei disgraziati, le mie non lo sono state. Sì. E dopo i frutti arrivano e i figli non li perdi, se dovessero andare in Australia, dovessero stare nel tuo quartiere, non li perdi mai se le basi sono buone. Grazie, Livia. Saluti anche le sue ragazze. Alberto, hai preso appunti? Ho preso appunti, ma in realtà Livia mi ha ricordato una delle frasi che anch'io utilizzo di più con i genitori quando lavoro con loro, cioè... perché i figli sappiano coltivare una sana distanza da noi dobbiamo capire qual è la sana vicinanza che permette a loro di andare via. E tutti i problemi fondamentali nelle separazioni tra genitori e figli è da una parte che i genitori a volte vogliono tenerseli troppo vicini e conseguentemente i figli non riescono proprio ad andare via, cioè si sentono intrappolati. Oggi vogliamo anche aiutare i genitori che sono un po' in difficoltà, che faccia sia il bene per i figli andare, questo è sicuro. Certo, però direi che la nostra ascoltatrice di Torino che ci dice: io avevo in testa che le mie figlie dovevano essere delle ragazze libere, cioè il poter pensare che tuo figlio ha un paio d'ali e può volare nella vita, ecco, questo pensiero degli adulti regala già una straordinaria libertà di movimento nella vita ai propri figli. Patrizia ci chiama da Carimate all'800 24 0024. Patrizia! Buongiorno, Nicoletta, buongiorno a tutti, buon anno. Grazie, sarà un bell'anno. Lo diciamo tutti gli anni, però. Per me è un anno di angoscia, sofferenza, vuoti. Io sempre educata, dico io perché è separata, sì, quando la pupa aveva 4 anni, ho educato io mia figlia. Sì. Guerriera, poi scuola Montessori, indipendenza, che brava, l'ho mandata in vacanza da sola nel senso in un ottimo kinderheim a 4 anni e mezzo, non ha sofferto, bravissima, corsi di vela in Sardegna 7-8 anni da sola, Inghilterra prestissimo, insomma, che brava, sì, orgogliosissima della mia bambina indipendente che non ha mai sofferto, università, Trieste, l'accompagno, appartamento, arrediamo, la saluto, ciao amore, bene, ci sentiamo, l'ho vista per le festività, sì, ovviamente, bene, io sono tutti i giorni in giro con un vuoto e vado alla stringa e vado a cercare e vado a comprare, ecco, io soffro, ora che è grande davvero e volerà, io soffro. E quando ho visto Mamma Mia, ragazzi, quanto ho pianto. Vero? Anch'io pianto. Infatti sono andata con Alberto Pellai, mio marito, la moglie di Alberto. Io ero devastata. Poi abbiamo anche ballato, riso, eccetera. Però, Patrizia, io vorrei leggerle un po' banalmente, per dire mal comune, mezzo gaudio, un messaggio che ci è arrivato e che faccio leggere ad Alberto, che io ho un po' le mie baricule che sono un po' malandate, non vedo bene. Comunque, la mia figlia minore è andata via da sola, Alberto, 15 giorni fa. Scrive Marisa, da allora ho una lama infilata nel cuore, tante sensazioni, sono vecchia, non servo più a nessuno, la casa è vuota e rimbomba, mia figlia è andata dovunque per molto tempo, ma ora è diverso, non tornerà più nella sua cameretta, sopravvivo con la ragione e con tantissimo amore. Allora, questo ci scrive Marisa, una situazione, un'emozione molto simile a quella descritta da Patrizia, ma che poi con il tempo lenisce, abbellisce, modifica, Alberto? Puoi darci una garanzia? Ce la possiamo fare. Ecco, e io chiedo d'aiuto ad Alberto, ma voglio darvi un aiuto. Un nostro gentile ascoltatore ci ha inviato una poesia, noi l'abbiamo fatta spicherare perché l'abbiamo trovata magnifica e secondo me è un piccolo balsamo. Andiamo. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. Ti vedrò andare per la tua strada, col mio cuore gonfio di orgoglio. Scenderà una lacrima e sarà dolce la tristezza nel vederti allontanare fuori dal mio territorio. Non ti terrò più la mano, come facevo con te, bambina, ma ti avrò nel cuore. E non ci sarà momento in cui pensieri ed emozioni che vivrò non ti appartengano, almeno un po'. È stato bello crescere con te. Ed è meraviglioso capire che tra tutti i regali della vita per un uomo, nulla è più dolce dello sguardo e del cuore di una figlia. Allora, un papà in gamba, che una poesia che dedichiamo a Patrizia, dedichiamo a Marisa e a tutti i nostri ascoltatori che ci mandano sms al 349-238-6666. Grazie Patrizia, mi raccomando, si tenga questa coccola. Ora devo uscire dall'Esselunga perché piango, non posso piangere nelle corsie. No, perché a meno che prenda un sacchettino di cipolle, puoi sempre dire che sono così forti di sapore. Ma poi, insomma, piangere non si deve mai aver vergogna di aver fare una lacrimuccia, no? Grazie Patrizia. Mille, a prestissimo, buon grazie lavoro. Alberto. Sì, io credo tristezza ed orgoglio non possono non esserci in ogni separazione, ma genitori non dimenticate che sono emozioni a specchio che provano anche i nostri figli quando si devono separare da noi. Per loro è un allenamento alla vita, pure molto faticoso, perché per loro sarebbe comodissimo stare sempre nel nostro lettone, stare sempre attaccati a noi, trovare tutto pronto, tutto fatto. Devono davvero sentire dentro di loro una forza che è specchio della forza che c'è dentro mamma e papà. Infatti, poi sono sempre comunque nuove opportunità. Assolutamente. Anche per sì. la coppia, per ritrovarsi, certo. per una dimensione. E direi che figli. Poi guardare un figlio che vola nella vita è... forse il massimo della realizzazione. Vediamo se è d'accordo con Alberto Marzia, che ci chiama da Lovere. Buongiorno Marzia, benvenuta, buon anno. Buon anno anche a voi e grazie di avermi chiamato. Ecco, io il percorso della separazione, diciamo grosso modo, sono riuscita a gestirlo abbastanza bene. Adesso c'è un nuovo tipo di separazione, nel senso che mio figlio ha una ragazza che abita all'estero, quindi diciamo c'è un amore di mezzo e quindi i valori, diciamo, nella scala non vengo io al primo posto, anche se sapevo benissimo che questo sarebbe successo, sì. ma diciamo che è una persona all'estero, quindi viaggi e difficoltà di vario genere, quindi faccio molta fatica ad accettare questo. Voi potete aiutarmi? Alberto sicuramente avrà una ricetta. Io dico che nell'accoglienza, anche nell'accogliere questa persona e accettare questa situazione di un figlio che si accompagna, decide di dividere, condividere la vita, una parte della sua vita con un'altra donna, è un passaggio molto difficile per una mamma. Sì. Ecco, io insisterei a cercare dei punti di contatto con questa nuova ragazza che ama suo figlio e quindi che per una sorta di proprietà transitiva, no? dovrebbe diventare cara anche a lei proprio perché lo rende felice, e nello stesso tempo anche trovare quei punti di lontani, così diversi da lei, perché lo sa che nel contrasto magari si crea poi un equilibrio, un'armonia di sapori. Ma lascio la parola ad Alberto, che è il nostro vero esperto. Io parlo da mamma, lui parla da psicoterapeuta. Ma credo che poi alla fine essere anche felici della felicità di un figlio, e quindi lasciarlo andare significa saper godere di tutte le conquiste che lui fa nella vita e vedere in quelle conquiste la nostra storia di vita. Siamo noi che l'abbiamo portato a quel punto. Penso, ed è una nota che ritorna in molti dei racconti dei nostri genitori, chiaramente un figlio che spicca il volo, che mette le ali, ci fa anche capire che noi stiamo un po' invecchiando, però di nuovo del nostro crescere in età e crescere in esperienza di vita possiamo fare tesoro e cominciare a coltivare nuovi progetti per noi. Abbiamo magari smesso di essere genitori a tempo pieno, possiamo ritornare uomini e donne a tempo pieno. Comunque Davide ci scrive: mia figlia si è sposata lo scorso anno, ho perso una figlia ma ho guadagnato un bagno. Quindi, mentre Fiorenzo da Bergamo ci suggerisce il testo di Un giorno, canzone di Guccini, che è proprio in tema, forse ci scrive Fiorenzo un po', no? Con una critica che noi leggiamo volentieri, meno sdolcinato della poesia del nostro papà, che ci è piaciuta molto, ma noi leggeremo tutte e due. Grazie molte a Fiorenzo. Alberto, però, ci separano 4 minuti dalla chiusura. E non è la chiusura solo di questa trasmissione di oggi, ma è proprio la chiusura della trasmissione. Purtroppo, insomma, siamo stati molto fortunati, 5 anni di dirette tutti i sabati con i nostri sono ascoltatori. Sono state quasi più di 250 puntate, Alberto. Sì, mettendole tutte insieme una dopo l'altra abbiamo fatto 250 ore di trasmissione. Io devo dire che tu, Nicoletta, sei stata forse ancora più fortunata di me, perché tu sei entrata in questa trasmissione nel pieno dell'adolescenza delle tue figlie. Infatti le mie figlie ringraziano. E io devo dire che i miei figli stanno per entrarci, quindi ho davvero scoperto in questi anni insieme ai nostri ascoltatori un mondo di consigli, un mondo di emozioni, un mondo di suggerimenti, un mondo di possibilità, un mondo di ricchezze nelle mamme e nei papà che ci hanno accolto, seguito. Insomma, ci siamo tanto amati, Sì, e quindi non possiamo noi stessi non essere protagonisti delle due emozioni che abbiamo condiviso oggi con i nostri ascoltatori. storie. Ringraziamo Radio 24 naturalmente che ci ha dato questa magnifica possibilità in questo programma di sperimentare un programma che è stato un po' una novità, no? Da cui poi sono partite altre ci hanno formule. Copiato lo ecco, possiamo dire. Volevo essere un pochino altri più tonda. Ci hanno copiato. Qualcuno ci scrive no perché finisce, si finiamo, però io credo che una delle frasi che abbiamo usato tantissimo nella nostra trasmissione, cioè questa non era una trasmissione che dava ricette, questa era una trasmissione che rendeva possibile condividere storie, narrare le nostre vicende di madri e padri con, non ad altri madri e padri, ma con altre mamme e papà, e quindi sentire che eravamo in qualche modo tutti sulla stessa barca. Abbiamo parlato, forse così, abbiamo esplorato quella che voi addetti ai lavori chiamate la genitorialità sociale, abbiamo portato la genitorialità sociale alla radio e quindi sì, questo è un stata tema. Veramente insomma una trasmissione molto amata, sentita, di pancia, di cuore, di testa, di emozioni vere, di vita, no? Di vita. Io le tante delle puntate che ho preparato con Alberto, tanti dei temi che abbiamo affrontato li ho proprio vissuti, no? In famiglia con due figli adolescenti che adesso insomma sono nella terza adolescenza, 21 anni, ormai, quanto sono? Ormai sì. Stanno spiccando il volo. Allora lasciami dire che naturalmente io ringrazio te che sei stata la mamma di questa casa non è un albergo, sei stata una splendida compagna di viaggio, mi dispiace adesso uscire dalla casa e non trovarti più, ma ti troverò ancora, e ringrazio naturalmente la mia famiglia che tutti i sabati mattina si svegliava, facevamo colazione insieme e poi vedeva un papà che prendeva la macchina e andava a fare la radio. Ecco, ringraziamo soprattutto voi per il vostro affetto, la fiducia che avete riposto in noi, le mail che ci avete mandato, che ci hanno permesso anche di trattare temi, di centrare il problema e quindi di essere un po' nelle vostre case con una formula amichevole, ma allo stesso tempo che voleva essere un po' da guida senza dare ricette, accendere pensieri. Usiamola ancora per l'ultima volta questa formula di Alberto Pellai. Carmelo Lauricella, ragazzi, ci dobbiamo separare. Carmelo Lauricella in regia mi fa segno che è finita. La trasmissione finisce qua. Con affetto, Nicoletta Carbone e Alberto Pellai.